degli uomini. Alcuni zoppicavano e si capiva che non era per un incidente di carrozza, ma per un primo attacco e perché avevano già, come si dice, un piede nella fossa. Alla loro, che cominciava a dischiudersi, alcune donne semiparalizzate sembrava non potessero strappare del tutto il vestito impigliato nella pietra tombale e non potevano raddrizzarsi, piegate com'erano, a testa bassa, in una curva simile a quella che occupavano ora fra la vita e la morte, prima della caduta finale. Niente poteva opporsi al movimento di questa parabola che le portava via. E quando volevano alzarsi, tremavano e le loro dita non trattenevano più nulla. In certuni i capelli non s'erano neanche imbiancati. Riconobbi così, quando venne a dire qualcosa al suo padrone, il vecchio cameriere del principe di Guermont. I peli ruvidi che rendevano irsute le sue guance, come il suo cranio, erano rimasti d'un rosso che dava sul rosa, né si poteva sospettare che si tingesse come la duchessa di Guermont, ma non per questo sembrava meno vecchio. Solo si intuiva che esistono negli uomini, come nel regno vegetale, i muschi, i licheni e così via, delle specie che non cambiano all'approssimarsi dell'inverno. Di solito questi cambiamenti erano, in effetti, atavici, e la famiglia, a volte soprattutto negli ebrei, la razza, veniva a coronare quelli che il tempo, andandosene, aveva lasciati a mezzo. Tali particolarità, d'altronde, dovevo forse pensare che sarebbero morte. Avevo un bel considerare da sempre. Il nostro essere individuale, in un momento determinato del tempo, come un polipaio, il cui occhio, organismo indipendente sebbene associato, se avverte della polvere, sbatte senza bisogno del comando dell'intelligenza, e il cui intestino, parassita nascosto, addirittura si infetta senza che l'intelligenza lo venga a sapere, e parallelamente per l'anima, ma anche nella durata della vita, come un succedersi di io giustapposti ma distinti, destinati a morire uno dopo l'altro, o magari ad alternarsi fra loro, come quelli che a Combré si sostituivano per me l'uno all'altro quando veniva la sera. Ma anche così avevo visto come queste cellule morali che compongono un essere siano più durature di lui. Avevo visto i vizi, il coraggio dei Guermont tornare in Saint-Luc come in lui stesso i suoi strani e brevi difetti di carattere, come il semitismo di Swann. Potevo vederlo ancora, questo, in Bloch. Aveva perduto suo padre da qualche anno, e quando allora gli avevo scritto, dapprima non aveva potuto rispondermi, perché in aggiunta ai grandi sentimenti familiari che esistono spesso nelle famiglie ebree, l'idea che suo padre fosse un uomo assolutamente superiore a chiunque altro aveva dato al suo amore per lui la forma d'un culto. Non era riuscito a sopportarne la perdita e si era dovuto chiudere per quasi un anno in una casa di cura. Aveva risposto alle mie condoglianze con un tono al tempo stesso profondamente sentito e quasi altero, tanto mi riteneva invidiabile d'aver avvicinato quell'uomo superiore la cui vettura a due cavalli avrebbe donato volentieri a qualche museo di storia. E adesso, al suo desco familiare, la stessa ira che animava il signor Bloch padre contro il signor Nissim Bernard, animava Bloch contro il proprio suocero. Gli faceva a tavola le stesse sfuriate. Come sentendo parlare Cottard, Brichot, tanti altri, avevo capito che attraverso la cultura e la moda un'unica ondulazione propaga per tutta la distesa dello spazio gli stessi modi di dire e di pensare. Così per l'intera durata del tempo, grandi ondate di fondo sollevano dalla profondità dei secoli le stesse collere, le stesse tristezze, gli stessi ardimenti, le stesse manie attraverso le generazioni sovrapposte, così che, sezionandone diverse d'una medesima serie, si può osservare la ripetizione, simile a ombre proiettate su schermi successivi, d'un quadro non meno identico, ma spesso meno insignificante, di quello che vedeva Bloch e il suocero, il signor Bloch padre e il signor Nissim Bernard, e altri che non avevo conosciuti, affrontarsi nello stesso modo. Certi volti avevano già, sotto il loro cappuccio di capelli bianchi, la rigidità, le palpebre sigillate di chi sta per morire, e le loro labbra, agitate da un tremito perpetuo, sembravano biascicare la preghiera degli agonizzanti. A un viso le cui linee erano rimaste le stesse, bastavano, perché sembrasse un altro, dei capelli bianchi al posto di capelli neri o biondi. I costumisti teatrali sanno che basta una parrucca incipriata per camuffare a sufficienza qualcuno e renderlo irriconoscibile. Il giovane conte di, che avevo visto allora sottotenente nel palco di Madame de Cambremer, il giorno che Madame de Germain era nella barcaccia di sua cugina, aveva sempre i suoi tratti, perfettamente regolari come prima, e anzi di più, perché la rigidità fisiologica dell'arteriosclerosi esaltava ulteriormente l'impassibile fissità della sua fisionomia da dandy e conferiva a quei lineamenti la nitidezza intensa e quasi ghignante a furia di immobilità di uno studio di Mantegna o di Michelangelo. Il suo colorito, un tempo d'un rosso acceso, era adesso d'un solenne pallore. Peli argentati, una lieve pinguedine, una nobiltà da doge, una stanchezza che si spingeva sino alla voglia di dormire, tutto concorreva in lui a dare un'impressione nuova e profetica di maestà fatale. Il rettangolo della barba bianca, che aveva sostituito un identico rettangolo di barba bionda, lo trasformava in modo così perfetto che, notando come il sottotenente che avevo conosciuto avesse ora 5 galloni, il mio primo pensiero fu di fargli le mie felicitazioni non per la promozione a colonnello, ma perché s'era travestito così bene da colonnello, prendendo in prestito, questa era l'impressione, l'uniforme e l'espressione grave e triste dell'ufficiale superiore che era stato suo padre. In un altro, la barba bianca al posto della barba bionda lo faceva sembrare, poiché il viso era rimasto vivace, sorridente e giovane, semplicemente più rosso e più intraprendente, aumentando lo scintillio degli occhi e dando, a quel mondano rimasto giovane, l'aria ispirata d'un profeta. La trasformazione operata soprattutto nelle donne, dai capelli bianchi, nonché da altri elementi, mi avrebbe colpito con minor forza se fosse stata soltanto un cambiamento di colore, che può affascinare gli occhi e non anche qualcosa che può turbare lo spirito, ossia un cambiamento di persona. In effetti, riconoscere qualcuno, e più ancora identificarlo dopo che non si è riusciti a riconoscerlo, significa pensare sotto un'unica denominazione due cose contraddittorie, ammettere che quello che c'era, l'essere di cui ci si ricordava, non c'è più, e che quello che c'è ora è un essere che non conoscevamo. Significa dover riflettere su un mistero inquietante, quasi come quello della morte, di cui esso è del resto una sorta di introduzione e di annuncio, perché sapevo che cosa volevano dire quei cambiamenti, a che cosa preludevano. Così nelle donne quel candore dei capelli, unito a tanti altri cambiamenti, era impressionante. Sentivo pronunciare un nome e restavo stupefatto al pensiero che esso si applicasse insieme alla bionda danzatrice di valzer, conosciuta un tempo, e alla greve signora dai capelli bianchi, che mi stava passando pesantemente accanto. Con un certo colorito rosaceo del volto, il nome era forse la sola cosa in comune fra quelle due donne, più diverse fra loro, quella della mia memoria e quella del ricevimento Germain, di un'ingenua e una madre nobile da commedia. Per riuscire a dare alla danzatrice di valzer quel corpo enorme, per rallentare come un metronomo i suoi movimenti appesantiti, per sostituire all'esile bionda, con una sola particella comune, forse, le guance, ora più larghe, certo, ma arrossate sin dalla giovinezza, quel vecchio maresciallo panciuto. La vita aveva dovuto compiere più devastazioni e ricostruzioni che permettere una cupola al posto d'un'aguglia. E quando si pensava che un lavoro simile era stato fatto non sulla materia inerte, ma su una carne che cambia solo insensibilmente, lo sconvolgente contrasto fra l'apparizione presente e l'essere che ricordavo faceva indietreggiare quest'ultimo verso un passato non soltanto remoto, ma quasi inverosimile. Si stentava a riunire i due aspetti, a pensare le due persone sotto un'unica denominazione. Infatti, se si stenta a credere che un morto sia stato vivo o che chi era vivo sia oggi morto, è quasi altrettanto difficile, ed una difficoltà dello stesso genere, perché l'annientamento della giovinezza, la distruzione di una persona piena di forze e di lievità è già un primo nulla. Concepire che colei che è stata giovane sia vecchia, dal momento che l'aspetto di questa vecchia, giustapposto a quello della giovane, sembra escluderlo a tal punto che è a volta la vecchia, poi la giovane, poi ancora la vecchia, ad apparirci come un sogno, e non si riesce a credere che questa possa essere stata quella, che la medesima materia di quella possa, senza rifugiarsi altrove, grazie alle sapienti manipolazioni del tempo, essere diventata questa, che si tratti della stessa materia rimasta senza abbandonarlo nello stesso corpo, se non si disponesse dell'indizio del nome uguale e della testimonianza affermativa degli amici, cui dà una parvenza di verosimiglianza solo quella rosa, stretta un tempo fra l'oro delle spighe, in risalto ora, sotto la neve. Come per la neve, d'altronde, il grado di candore dei capelli sembrava in generale un segno della profondità del tempo vissuto, come quelle cime montane che, pur apparendo agli occhi sulla stessa linea di altre, rivelano il livello della loro altitudine col grado del loro candore nevoso. E tuttavia non era proprio così per tutti, soprattutto per le donne. Per esempio, le ciocche della principessa di Guermantes, che quando erano grigie e brillanti come la seta sembravano aureolare d'argento la sua fronte bombata, avendo assunto, a forza di diventare bianche, l'opacità della lana e della stoppa, sembravano per questo grigie come neve sporca che ha perduto il suo splendore. E spesso quelle bionde danzatrici non s'erano assicurate, con una parrucca di capelli bianchi, soltanto l'amicizia di duchesse che una volta non conoscevano. Ma loro che un tempo non facevano che danzare erano state toccate dall'arte come dalla grazia. E come nel XVII secolo c'erano dame illustri che si facevano suore, così loro vivevano in un appartamento pieno di quadri cubisti, perché un pittore cubista non lavorava che per loro e loro non vivevano che per lui. Quanto ai vecchi, i cui lineamenti erano cambiati, cercavano di mantenervi in permanenza una di quelle espressioni fuggitive che si prendono per un secondo di posa e con cui si cerca o di trarre profitto da un pregio esteriore o di rimediare a un difetto, e sembrava che fossero diventati definitivamente delle immutabili istantanee di se stessi. Tutte queste persone ci avevano messo tanto tempo a indossare il loro travestimento che questo passava generalmente inosservato agli occhi di chi viveva con loro. Spesso fruivano persino d'una dilazione durante la quale potevano continuare per parecchio tempo ad essere se stessi. Ma il travestimento prorogato, allora, lo si doveva fare più in fretta. In ogni caso, esso era inevitabile. Non avevo mai notato alcuna somiglianza fra Madame X e sua madre, che avevo conosciuta solo da vecchia con l'aspetto d'un piccolo turco tutto rattrappito. In realtà avevo sempre visto Madame X, affascinante e dritta, e tale era in effetti rimasta per molto tempo, per troppo tempo, perché, come una persona che prima di sera non deve dimenticarsi di indossare il suo travestimento da turca, aveva fatto tardi e si era rattrappita precipitosamente, quasi di colpo, riproducendo fedelmente l'aspetto da vecchia turca che era stato un tempo di sua madre.